Condivido la tua preoccupazione anche, se vogliamo, la tua prospettiva così severa e ragionatamente pessimistica sul destino delle aziende agricole che, diciamo, che sopravvivono, mettiamola così. E nello stesso tempo riconosco, come ha detto Renata, che le nostre aziende possono avere una, diciamo, una matrice urbana, se vogliamo, no? Che per la nostra formazione, la nostra nascita, la nostra vita precedente, che le rende sotto più punti di vista anomale. Però, secondo me, questa anomalia non va letta come, diciamo, un rischio congenito di nicchia o comunque di un'esperienza a rischio elitario, no? Perché all'interno poi di ciascuna azienda avvengono dei processi che vanno proprio in una direzione invece popolare, decisamente popolare. Io, attuando la vendita diretta in azienda, ho visto nel corso di questi anni venire ad acquistare il prodotto le persone proprio più diverse e le attenzioni anche più diverse. Adesso abbiamo questo rapporto molto bello con un gas di Baggio, che peraltro ha dietro di sé anche un'associazione che si chiama Dimensioni Diverse, hanno un'impostazione molto rigorosa sulla vita, eccetera. Però con loro abbiamo stabilito un rapporto molto bello, molto collaborativo anche nella programmazione, eccetera, ma il dato che è emerso è stato pubblicato un libretto su come si formano i gas nell'ambito della CISL ed è stata riportata questa esperienza nostra, no, con il gas di Baggio. Ad esempio, una delle ragioni fondamentali del funzionamento di questa esperienza è che c'è la qualità del prodotto, ma c'è anche la qualità del prezzo. Per cui venire ad acquistare in azienda il prodotto biologico significa risparmiare fino al 40% rispetto all'acquisto che uno farebbe nel negozio specializzato o al supermercato o dov'altro. E quindi io credo davvero che le esperienze di questo tipo possano proprio favorire un nuovo rapporto fra l'agricoltura che continua in campagna e l'urbanità e la città, tant'è che poi diventano occasioni per rapporti fra il produttore e l'acquirente che vanno totalmente al di là dell'acquisto stesso. Non so, faccio due esempi. Adesso c'è stata, mi hanno chiesto di organizzare in Cascina, io ho ospitato una festa per raccogliere dei fondi per una scuola a Cuba che è stata, insomma, devastata da una tempesta, da un uragano. Adesso organizzeremo una giornata in settembre sulla vendita diretta e proprio la promozione della vendita diretta presso le aziende agricole, i piccoli artigiani, eccetera. E siccome hanno un coro, cioè un coro, verrà il coro a cantare in azienda, ci saranno delle. E in realtà si crea proprio attorno all'atto dell'acquisto un dialogo che è molto simile a quello di questa sera e che è veramente occasione di un ponte di relazioni. Adesso stanno, lei ad esempio stamattina è stata per la prima volta giusto? In azienda. A raccogliere e si creano queste relazioni, secondo me, molto importanti fra la città e la campagna, che è quello che è stato fatto sicuramente quest'oggi qui. Io credo che non sia facile, ma credo che sia possibile possibile creare questi ponti che servono davvero a, a superare, a colmare le distanze. E sono convinto che è nostra responsabilità, perché quel rischio c'è il rischio di una cristallizzazione elitaria, anche indipendentemente dal, o di nicchia, chiamiamola di nicchia, indipendentemente dalla volontà nostra, no? C'è. Non è un problema di volontà dei singoli. No, però credo che ci siano veramente delle cose che si possono, che si può. Ne dico un'altra, ad esempio, ne abbiamo parlato spesso con il Gabriele, questa ad esempio è una nostra mancanza finora, perché non siamo riusciti a farlo come si dovrebbe fare, ma il fatto che esista una realtà agrituristica può essere motore proprio per l'attività agricola, perché noi potremmo scambiarci dei prodotti che non produciamo. Io non produco riso, potrei prenderlo dall'Ele, che potrebbe prendere le mie verdure, perché per cui tra le stesse nostre aziende possono stabilirsi dei rapporti che vadano in questa direzione. Cioè, c'è sicuramente molto da fare.